avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Una delle trasmissioni ricorrenti nelle puntate di Melog sin dalle sue origini, che ormai mi sembra sia la quinta o sesta edizione, è ogni tanto ritoccare, ritrattare, rinverdire e riapprofondire la fenomenologia di Mike Buongiorno. Mike Buongiorno, personaggio chiave della nostra storia patria, non soltanto perché attraversò felicemente, anzi vide a battesimo la televisione italiana, ma perché rappresentò via via aspirazioni, desideri di evasione, desideri di tranquillità, immedesimazione degli italiani. Una cinquantina d'anni fa Umberto Eco gli dedicò un suo famoso saggio del Diario Minimo, La fenomenologia di Mike Buongiorno, definendolo come eroe della media età, importante in quanto rappresentava felicemente e epicamente l'uomo medio. Poi un giorno, Mike Buongiorno, come tutti gli esseri mortali, passò a miglior vita. Esattamente 2 anni fa, ieri si ricordava il secondo anniversario della morte di Mike Buongiorno. Ma a contraddire quella che fu la celebre lettura di Umberto Eco, a differenza di ogni uomo medio, il corpo di Mike Buongiorno non è più nella sua tomba, sì, perché qualche mese dopo la sua inumazione la sua salma fu trafugata, scomparsa, e da allora non se ne sa più nulla, e di questo oggi vogliamo parlare. La bara di Mike Buongiorno è stata trafugata, rubata dal cimitero di Dagnente, un paese vicino ad Arona dove era stato sepolto per volontà della famiglia. Il comune di Milano infatti diede la disponibilità di poter seppellire la salma di Mike Buongiorno nel cimitero monumentale del capoluogo lombardo accanto ai più illustri cittadini milanesi, ma la famiglia volle portare la salma del celebre conduttore nella cappella di famiglia che si trova in questo piccolissimo comune alle porte. E questo è l'episodio, ricordate, suscitò grande commozione, grande attenzione, grande palpitazione. La televisione ci si buttò subito sopra pensando di poter fare una delle grandi saghe a lieto fine che spesso danno forza e consistenza ai palinsesti. Nessun segnale stanotte, nessun rumore strano, movimento? Ma no, io non sono così vicino da sentire rumori, però quello che stamattina hanno visto che c'era qualcosa fuori posto, hanno controllato, hanno riscontrato il fumo. L'oculo era proprio vuoto? Vuoto, altro che vuoto, ho visto lì col malfatto lì, come si fa a non dire la che lapide c'è? Per terra? I mattoni? Detto, i mattoni? I mattoni in terra. Da dove possono averlo portato fuori? Cancellano il fatto di vento? No, io penso che li usciti dall'altra parte. Di là. L'ha fatto scendere dal muretto? Iniziano le ipotesi, iniziano le riflessioni, da quelle più banalmente legate ad episodi simili. È stato rubato da qualcuno che vuole chiedere un riscatto, è stato un gesto di qualche fan esasperato, quelle che addirittura affondano nel fantastico. Mike in realtà segue la sorte di un uomo eccelso, sempre ad onta ciò diceva Umberto Eco, soltanto ai santi, agli eroi, ai grandi personaggi capita che qualcuno porti via il corpo. La storia sacra è piena di corpi trafugati, di santi che vengono dall'Oriente, di importanti personaggi che vengono fatti spostare, perché il corpo di una persona illustre in sé ha un valore profondo, è quasi una reliquia. E poi il silenzio assoluto, non se ne è saputo più nulla. Improvvisamente la televisione si ammoscia, non ha la forza di Avetrana, non ha la forza di uno dei grandi insoluti crimini della nostra storia contemporanea, stacca la spina alla televisione e del corpo scomparso di Mike non se ne sa più nulla. Fino a che ieri sul Corriere della Sera, ieri l'altro sul Corriere della Sera, il figlio di Mike Buongiorno, Michele Buongiorno, scrive una lettera accorata. Aiutateci a ritrovare il corpo di nostro padre. Per nostra madre, per me e i miei fratelli, questa seconda ricorrenza della morte di mio padre avviene 8 mesi dopo la profanazione della tomba, e il rapimento della sua salma. Per quanto il clamore della notizia e lo sdegno suscitato in tutta Italia abbiano smosso un sentimento di solidarietà fortissimo, le ricerche investigative non hanno purtroppo portato a piste concrete per il ritrovamento. Da molti mesi è però calato un silenzio, sicuramente anche di rispetto verso la nostra famiglia, visto la delicatezza della situazione, ma che a volte suona anche di arresa. Viviamo questa seconda ricorrenza non solo con ancora più dolore della prima, ma con in più un forte senso di spaesamento verso un gesto che non si è ancora chiarito e che facciamo fatica a pensare di dover un giorno spiegare ai nostri figli o nipoti. Nella lettera della famiglia, appunto, Mark Bongiorno ritorna l'aspetto umano, l'aspetto di uomo comune. Una famiglia, anche se toccata, lambita, la grande fortuna della celebrità, probabilmente l'uomo più celebre, più noto, più famoso, più importante a televisione italiana, con tutto il valore può avere o il disvalore può avere la televisione. In realtà abbiamo sempre visto con grande attenzione, grande curiosità la televisione. La televisione è lo specchio di una società. La società si evolve e si appalesa nei suoi desideri, nei suoi aspetti oscuri, nelle sue nascoste ambizioni attraverso la televisione. Nel bene o nel male la televisione riflette un popolo. E Mark Bongiorno è stato il nocchiero di questo popolo che si è espresso attraverso la televisione. Quindi nella sua proiezione familiare c'è una famiglia disperata. Perché? Perché sono abituati nella loro frequentazione delle tradizioni tranquille, normali, banalmente diffuse in tutto il paese, di elaborazione di un lutto, di avere una tomba a cui portare dei fiori. E questa tomba loro non ce l'hanno. Desideriamo chiedere alle istituzioni, alle forze dell'ordine e a chiunque sappia qualcosa di non abbandonarci e che venga fatto ancora tutto il possibile perché sia risolta questa situazione per ciò che è giusto. Al di là di ragionamenti su chi soffre e chi tanto non può più soffrire, su chi ha commesso un atto vile e vergognoso e su come e quanto va punito, sul non concedersi mai a sentimenti di vendetta, nonostante il conforto degli italiani che incontriamo per la strada, che ci abbracciano e si commuovono e ci chiedono se ci sono novità, e anche oltre a filosofie sull'anima e sul corpo, crediamo che siano di immenso valore la memoria, le nostre tradizioni e la nostra cultura. E mio padre, per primo, ci ha insegnato che è giusto e bene poter andare a trovare i propri cari e portare loro un fiore sulla tomba. Michele Bongiorno, 7 settembre 2011. Ecco che si richiude il cerchio della nostra prefigurazione. Il grande personaggio televisivo, colui probabilmente invidiato, ammirato, seguito, da qualcuno anche probabilmente denigrato nella sua cifra di personaggio popolare. Noi siamo pieni di persone che dicono: non guardiamo la televisione, Dio mio, ci allontaniamo, meglio un buon libro. Comunque sia, un personaggio che tracciato una parte fondamentale della nostra storia degli ultimi decenni, si ricompone il desiderio lecito, normale di una famiglia, di avere la salma del proprio caro. Non sapendo dopo 2 anni che fine abbia fatto, non avendo più notizie, essendosi spento il riflettore dei media su questa vicenda, fanno quello che farebbe qualunque persona, scrive una lettera ai giornali, sperando che si riaccenda perlomeno l'attenzione. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, buongiorno. Buongiorno. Giancarlo Liviano d'Arcangelo è uno scrittore, un giornalista, perlomeno un appassionato di attualità, che ha scritto un libro che è uscito proprio ieri, Le ceneri di Mike, edizione Galleria Fandango. Giancarlo è andato per il suo editore all'indomani proprio del trafugamento della salma di Mike Bongiorno nel luogo in cui si è prodotto questo evento, c'è stato alcune settimane, e ha scritto un libro. Una tua primissima impressione su quello che abbiamo detto e su questo periodo di totale silenzio su questa vicenda? Beh, questo è stato uno degli aspetti che durante le fasi poi di realizzazione del libro ci ha più colpito, perché io e l'editore avevamo un'idea molto precisa su questo caso. Ci sembrava che l'interesse della trafugazione della salma di Mike non fosse soltanto un interesse dal punto di vista dell'attualità, dal punto di vista cronachistico, ma fosse anche ci fosse un enorme interesse anche dal punto di vista culturale. Era diciamo un vulnus alla nostra storia patria. Esatto. Dovevamo sapere alla fine cosa è successo di una persona che comunque sia rappresenta un punto fondamentale della nostra storia. Certo, Mike Buongiorno è stato il vero e proprio fondatore, quasi si può dire, della televisione italiana, perché già nel 1954 con il suo programma Arrivi e Partenze ha inaugurato in prima persona proprio la storia delle trasmissioni Rai. E di lui si erano già occupati gli intellettuali, si era occupato di lui Umberto Eco nel 1961 scrivendo la celebre fenomenologia di Mike Buongiorno, e quindi a noi sembrava assolutamente interessante andare a cercare di riprendere e di riportare in auge in qualche modo la figura di Mike Buongiorno, analizzando quello che è stato per l'Italia, quello che ha, in che modo lui ha influenzato tutto l'immaginario dell'intera nazione, e però cercando di analizzarlo non dal punto di vista, come dire, saggistico, dal punto di vista tecnico, del linguaggio specialistico o accademico, ma attraverso la narrativa, attraverso il reportage narrativo. Ecco, quello che faremo assieme a Giancarlo Viano d'Arcangelo è raccontare il luogo in cui si è svolta questa vicenda, perché gli unici elementi che abbiamo a disposizione è quello che lì è accaduto, lì accadde. Volevo però adesso chiamare, so che ha poco tempo a disposizione, lo ringrazio di dedicarcelo, Nicolò Buongiorno. Nicolò Buongiorno, buona giornata. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Siamo pieni di buongiorno questa mattina, ma d'altronde l'argomento è questo. Ecco, mi chiarisci un po' meglio ciò che ti aspetti da questa lettera scritta ai giornali, il perché è stata fatta, cosa dovrebbero fare, chi dovrebbe fare di più per dare qualche lume su questa vicenda? Ma guarda, sostanzialmente la lettera vuole riportare... fondamentalmente è uno sfogo proprio che proviene dalla dimensione umana. Mio fratello Michele ha espresso il suo dolore e non è che si aspetta chissà cosa da questa lettera o una polemica mirata contro qualcuno, perché noi ci sentiamo molto assistiti dalle forze dell'ordine che si stanno dando molto da fare per risolvere questo caso. Però ecco, siccome sono passati tanti mesi e non succede nulla e la vicenda continua a essere avvolta dal mistero. Ma voi come famiglia avete qualche elemento, qualcosa, senza naturalmente chiamare in causa persone e situazioni che non possono essere chiamate in causa, qualcosa di concreto a cui appigliarvi, una vostra ipotesi? Assolutamente non c'è nulla di concreto a cui ci possiamo appigliare, siamo proprio spaesati sostanzialmente, questa è una parola diciamo chiave, e non sappiamo nulla. Infatti molti ci chiedono: ah, ma voi chi pensate che sia? Ma cosa ne sappiamo? Non abbiamo la minima idea. Ecco, si fanno allusioni, ci sono le indagini in corso, ma la cosa brutta, ecco, che poi ci turba, perché questa è una nostra vicenda di famiglia molto intima e quindi ha proprio si può leggere da questa prospettiva proprio molto personale. Tu capisci che però è una vicenda intima quando tratta un personaggio mai così noto, che appartiene un po' a tutto l'immaginario di un paese, in parte certo, è giusto che si contamini anche con l'attenzione del mondo. Ma difatti mio fratello si è permesso di fare un appello al paese, proprio perché riteniamo che comunque in qualche modo Mike faccia parte di una famiglia più ampia, e quindi riteniamo un po', in un certo senso chiediamo aiuto alla gente in generale, affinché magari con una partecipazione più motivata in qualche modo un effetto domino, poi si sblocchi la situazione. Ecco, la vediamo Nicolò, cosa su questo può essere attivamente, concretamente fatto. Immaginiamo che le forze dell'ordine stiano facendo il possibile, se in tanti mesi tutte le piste battute non hanno portato a nulla, continueranno a seguirle ma useranno i loro strumenti. Però esiste un secondo livello di attenzione che forse potremmo sollevare e suscitare anche semplicemente parlando nella radio. Persone che possono aver sentito dire qualcosa, possono avere un'idea un pochino più precisa, o persone che in realtà possono aver avuto, perché non è del tutto improbabile che non ci possano sentire, parte attiva in questa vicenda, e che a questo punto, visto che riscatti non ne sono stati chiesti, visto che anche se ci fosse stata una idea criminosa finalizzata ad ottenere un profitto in denaro, a questo punto è vanificata, perché nessuno chiede più un riscatto dopo tanti mesi, sarebbe il caso che si dessero un momento di riflessione e decidessero alla fine dare qualche elemento a voi e alla famiglia. Forse è questo il senso. Assolutamente sì, noi chiediamo notizie, insomma. Il problema è che la cosa assurda è che di riscatti ne sono stati chiesti, si sono fatti avanti molti sciacalli. Erano tutti balordi, sciacalli, sì. e quindi il fatto che non si sa mai poi chi è quello vero, chi c'è dietro, se la richiesta proviene dalla fonte vera. Il problema è che quelli veri che l'hanno fatto veramente, apparentemente, non si sono fatti vivi. Quindi non c'è nemmeno a questo punto di vista una traccia concreta per la... Ecco, casomai metti per assurdo che qualcuno che sapesse qualcosa sentisse, a parte chiamare all'800240024, che è il numero della trasmissione, esiste un tramite, un canale discreto, anonimo e tutto, per farvi avere delle informazioni, delle notizie? Vuoi darlo alla radio? Ma sì, noi abbiamo piena fiducia del nostro parroco di Dagnente, che è Don Mauro Pozzi. Lui è una persona che ha contatti con la famiglia e si adopera in modo molto discreto e anonimo per aiutarci. È un suo ruolo pubblico, perché è parroco, e quindi noi ci fidiamo pienamente di lui, e in passato ci ha aiutato e continua a esserci vicino. Quindi, come accadeva negli antichi romanzi d'appendice, tu dici che forse la discrezione di un parroco è il tramite più efficace per farvi sapere qualche notizia. Se qualcuno sapesse qualcosa e non vuole sentirsi compromesso da questo suo sapere, può comunque dirlo, ripetiamolo, esattamente a chi? Assolutamente sì, a Don Mauro Pozzi, parroco di Dagnente. Gli si può scrivere una lettera in parrocchia, lo si può contattare anche telefonicamente, su internet ci sono i suoi riferimenti. Insomma, lui ha piena fiducia della famiglia e si muoverà in modo discreto. Nicolò, io ti saluto, ti ringrazio del tempo mi hai dedicato. Continueremo a parlare per tutta la puntata di questa vicenda, partendo dal reportage che ha fatto Giancarlo Liviano d'Arcangelo, e chiamando all'appello anche i nostri ascoltatori, chiamando all'800240024, se avete altri elementi di tipo emotivo, ipotesi da aggiungere a quelle che abbiamo già fatto, o elementi concreti che possono aiutare a definire questa sorta di enigma attorno alla scomparsa della Salma Meck, buongiorno, siamo qui ad aspettarvi. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, riprendiamo il tuo reportage, avendo salutato Nicolò, buongiorno. Tu sei arrivato quindi una mattina nel luogo fisico in cui si stanno svolgendo, quindi le indagini, nel pieno comunque dell'attenzione televisiva. Come reagiva la provincia, il paese, il posto, che è diciamo paradigmatico, esemplificativo di tutta la provincia del nostro paese, toccati improvvisamente, come accadeva in tanti altri casi, in tanti altri paesi noti, da una vicenda importante, forte, che non avevano valutato loro? Beh, sicuramente sin dai primi giorni c'è stato un grandissimo seguito sulla vicenda. Il cimitero di Dagnente nei primi giorni sembrava davvero uno scenario di una delle grandi fiction americane che siamo abituati a vedere. C'erano i nastri bicolori, c'erano gli operatori televisivi, c'erano i RIS addirittura, gli stessi RIS che poi furono chiamati per tanti altri grossi casi di cronaca nera che siamo abituati a sentire sui media, cioè ad esempio quello di Anna Maria Franzoni e via dicendo. C'è da dire però che la cosa che ci sorprende, che mi ha sorpreso moltissimo, è che questa attenzione purtroppo è durata poco, è durata due o tre giorni, tre o quattro giorni, poi allo scadere di questi tre o quattro giorni, quando i media, forse non trovando elementi di serialità in questa storia, hanno diciamo così ristretto l'attenzione sul caso, allo stesso modo anche il cimitero diventava sempre meno popolato. C'è anche da dire che rispetto a un delitto in cui bisogna trovare un colpevole è molto più vasto il territorio da osservare. Qui, una volta analizzata l'area del cimitero e cominciata a fare le indagini, ben poco c'era da fare. Sentiamo l'ascoltatore Enrico. Enrico, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno Nicoletti, ecco appunto, fermo restando, mi dispiace molto per il dolore che possono provare i familiari di Maike Buongiorno. Dico, io una volta lessi, tipo 20 anni fa, che era stata trafugata una salma in provincia di Lucca, insomma, per rubare quello che i congiunti avevano messo all'interno della tomba, no? Qua non è il seppellimento di un monarca, di un re di altri tempi, non credo che sia stato coperto di ademi d'oro. Adesso, senza entrare nei particolari, ma non penso che il motivo sia quello di una pura spoliazione di valore a un cadavere. Però, magari c'è gente che per 10-20 mila euro fa di molto, anche di peggio. Magari non so, che se i familiari avessero dato sepoltura con magari un bel orologio, un qualcosa. Vabbè, che tutto che uno rischi con un personaggio così noto, in una circostanza così visibile per un orologio, mi sembra difficile. Giancarlo, cosa ne pensi? Beh, sicuramente lì sul posto è stata fatta questa ipotesi. Sono moltissime tesi, sono davvero innumerevoli. Io ho cercato di raccoglierle. Un po' poi le enumeriamo tutte. Sì. C'è un decalogo, sono 10 i tuoi punti, perlomeno. Esatto, sì, abbiamo cercato di fare un decalogo. Su questo punto in particolare, beh, io credo che magari si poteva fare un tentativo, si poteva ipotizzare che potesse essere qualche oggetto prezioso. Però probabilmente il vero scopo era quello di un'estorsione, per cercare, insomma, magari sperando che la famiglia di Mike Bongiorno poi pagasse prima ancora di avvisare i media. Forse era questo il tentativo. Una volta poi smorzato questo tentativo, io credo che l'attenzione, la grossa attenzione dei primi giorni abbia un po' spaventato gli autori di questo oltraggio. 800 24 00 24, continuate a chiamare, noi ci fermiamo soltanto un istante per dare la linea alle informazioni della borsa. 800 24 00 24, siamo questa mattina a riflettere sulla scomparsa del corpo di Mike Bongiorno. Lo facciamo con Giancarlo Liviano d'Arcangelo, autore delle Ceneri di Mike, un libro uscito per Fandango proprio ieri, che segue con l'occhio del cronista. Giancarlo è uno scrittore, ma in questo caso ha voluto interessarsi alla realtà nel suo immediato accadere. È stato nel paese di Dagniente, nel comune di Arona, dove era seppellito Mike e dove è stato trafugato il cadavere. C'è stato alcune settimane per capire, per vedere, per considerare l'impatto in una classica provincia italiana di un evento così fatalmente tragico ma allo stesso tempo significativo. Mike Bongiorno, l'uomo che ha favorito la transumanza degli italiani in questo paradiso parallelo che è il mondo della televisione, del telequiz, dei soldi che si guadagnano e si vincono attraverso l'erudizione, la conoscenza di apparentemente inutili sequenze di nomi e di vicende, di talenti che mai avrebbero avuto altra applicazione concreta e pratica se non nel telequiz. Viene studiato, denigrato, sbeffeggiato, idolatrato, amato. Umberto Eco ci scrive un saggio sopra, dice che la sua forza è proprio il fatto che è l'uomo medio per eccellenza, porta la medietà a livello del sublime. Quando muore, il suo corpo scompare, come quello di un santo da qualcuno viene trafugato. Non sa bene da chi. Ci sono varie ipotesi, varie piste, e Giancarlo le ha seguite, ne parleremo, ma tra un istante dopo aver sentito i primi ascoltatori della seconda parte di Melog. Attilio. Attilio, dunque, buongiorno. Sì, la sento. Una sua ipotesi. La mia ipotesi è che il riscatto non c'entra assolutamente niente, perché altrimenti sarebbero già saltati fuori. Quindi i motivi sono per forza altri, qualcuno che paradossalmente voleva la salma di Mike per sé. Come fosse una reliquia. Esatto. È una delle ipotesi che Giancarlo Liviano d'Arcangelo elenca, adesso le sentiremo, quello che ci sia proprio un livello di fanatismo nei confronti del personaggio pubblico tale che impossessarsi della salma ci si impossessa di un oggetto di potere. Esistono un'infinità di idee rispetto al potere che può emanare il corpo o parte del corpo di una persona eccezionale. Tutta la il portato religioso legato alle reliquie, in altro campo, in altro contesto, con tutti i debiti distinguo, ma fa sì che il corpo attraversato dalla virtù eroica del santo abbia un potere taumaturgico, un potere salvifico, perché nelle chiese ci sono delle reliquie, per questo, perché il corpo di una persona eccezionale ha un potere eccezionale. Giancarlo Liviano d'Arcangelo, entriamo subito allora nelle ipotesi, visto che questo ascoltatore l'ha fatta una delle tue ipotesi, delle 10 ipotesi, questa: un fan sfegatato che abbia portato via il corpo. Beh, questa è un'ipotesi assolutamente forse tra le più suggestive, ma anche tra le più letterarie, se vogliamo, nel senso che sicuramente Mike Bongiorno è un personaggio che si presta a un'idealizzazione, che si presta, come dicevi tu, davvero a convogliare su di sé davvero delle proprietà quasi provvidenziali, come se fosse figlio della provvidenza. Però sicuramente ce ne sono molte altre che io ho tentato di raccogliere lì sul posto. Ma proviamoci un attimo su questa, scusa, perché vedo che invece il pubblico è quella che accarezza di più. Il fatto che Noi non dobbiamo sottovalutare la forza dell'affezione popolare verso un personaggio televisivo. Noi che guardiamo la televisione a volte con uno spirito divertito, ma con una distanza che ci dà da orizzonti magari lievemente più ampi, che ha soltanto la televisione come strumento di lettura dell'universo. Il personaggio forte nella televisione corrisponde a una sorta di Dio in terra. Questa è un po' anche l'ipotesi che fa Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, la sto ascoltando. Niente, l'ospite precedente mi ha un po' rubato l'idea, insomma. Ecco. Beh, lei la focalizzi sul suo punto di vista. Io poi, tra l'altro, ho un'attività che è a 500 metri dal cimitero. Quindi lei abita da quelle parti? Assolutamente. Allora, sì. Posso farle una domanda? Certo. Che in sé è del malizioso, ma lei mi capirà. Come mai Nicolò Buongiorno ha citato come fonte di eventuale confidenza il vostro parroco? Non ha dato un numero di telefono, non ha dato un'email. Scusi? Il vostro parroco ha detto: se avete qualcosa da qualche informazione, andate dal parroco di Dagniente. Mi fa pensare che sembra quasi che l'idea sia che sia qualcuno del posto che vada al parroco, come fosse il più sincero confidente, la persona più affidabile. Sennò avrebbe detto: vi do un numero di telefono, un'email e via dicendo. Ha un fondamento questa mia idea? Diciamo che telefonando, mettersi in contatto con la famiglia potrebbe anche essere pericoloso, probabilmente. Invece col parroco. Sì, ma il parroco del paese dove è accaduta la cosa farebbe quasi pensare che la cosa possa essere circoscritta a qualcuno che abita all'intorno, lì vicino. Ma cioè, potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere, secondo me. Ma lei che conosce la gente del paese, c'è un'ipotesi che magari, non so, una banda di ragazzacci scapestrati, volendo fare la bravata, ci pigliamo il corpo di Mike? Lei allora qual è la sua ipotesi? Non ho questo sentore. La sua ipotesi invece qual è? Lei dice un fan accanito. Ma sì, un fan o più una fan addirittura. Una donna. Perché, ma mi dice più una donna a me. Magari di un certo potere economico, diciamo così, finanziario, che possa aver ordito appunto e per farne cosa? Di questo genere su commissione, in modo che chi ha rubato la salma è venuta pagata da questa persona e questa persona se ne sta zitta. È un turpe monatto. Loro prendono i soldi e nessuno, non devono telefonare per avere un riscatto. Stare zitti. Diciamo si chiude il cerchio in questa maniera qui. E diciamo questa scusi, questa sto aiutandola a creare la trama. Questa gentildonna ricca e appassionata di Mike, una volta fatto trafugare, cosa ne fa fisicamente? Ecco, stavo dicendo appunto che mi immagino che sarà sepolto in una posizione del suo giardino, grande giardino, in un bosco del suo giardino, dove ogni tanto va lì con la sua seggiola, si mette lì e parla con Mike e si dà anche probabilmente delle risposte. Quindi lo ha inumato come avesse una sepoltura di un personaggio caro nel suo giardino. Esattamente, esattamente. Potrebbe essere un figlio, un cugino. Come diceva lei, giustamente, ci sono delle persone che il loro mondo lo vedono solo nell'ambito televisivo, per vari motivi, varie vicissitudini, e probabilmente questo per lui è diventato un familiare oppure un Giancarlo Liviano d'Arcangio. Grazie Roberto, è chiaro quello che le ha detto Giancarlo Liviano d'Arcangio. Questa ipotesi romanzesca, allora, la gentildonna che può permettersi a un potere di acquisto economico per togliersi anche lo sfizio di avere sepolto nel giardino il suo eroe, lo fa e con lui dà valore alla sua casa, alla sua abitazione, è come avere un santo in famiglia. Io conosco persone che hanno una reliquia nella loro casa paterna che gli è stata donata secoli fa e la tengono nella cappella di famiglia. Nella cappella laica di famiglia di questa signora c'è la salma di Mike. Tu hai pensato a cose del genere? Sì, anche perché tra l'altro poi ho scoperto, anche documentandomi, che esiste nel mondo anche un mercato che si chiama mercato di Wunderkammer, cioè vale a dire di oggetti straordinari, oggetti molto particolari, addirittura feti imbalsamati, addirittura animali strani. Un mercato clandestino, diciamo. Sì, sì, naturalmente un mercato clandestino, che però naturalmente nei suoi aspetti così più soft ha anche negozi veri e propri alla luce del sole, normali. Naturalmente sarebbe bello scoprire cosa c'è dietro questi feticci, negozi. Feticci strani. Feticci veri e propri, con animali con la testa magari sovradimensionata, con gli arti sovradimensionati, cioè tutta una serie di elementi che naturalmente suscitano la meraviglia, suscitano il grande... Quindi diciamo, in questo mercato avrebbe una sua ragione di essere collocata anche la salma l'alma di un personaggio noto. Certo, un personaggio così importante. Tra l'altro, una delle cose che mi colpì molto quando ero lì ad Arona è che addirittura proprio la stampa ufficiale, si occupò in quei giorni di una tesi che possiamo definire un po' forse anche eccentrica, vale a dire quella della pista che riportava addirittura al premier Silvio Berlusconi, il quale ha, come tutti sappiamo, ha un famoso enorme mausoleo costellato di simboli esoterici, che e soprattutto pare che lui abbia l'intenzione di portare attorno a sé, nel momento in cui poi anche lui passerà a miglior vita, tutta una serie di personaggi che sono stati importanti per la sua crescita. Sì, in questa diciamo genealogia e cosmologia della metafisica berlusconiana c'è questo mausoleo ad, esatto, Arcore, in cui dovrà esserci seppellito con Falonieri, Emilio Fede, non si sa se avrà ancora questo diritto. Comunque, i personaggi fondatori di questo pensiero, si pensa che comunque un grande valore avrebbe comunque il corpo di Mike, quindi molti hanno detto forse lo ha preso Berlusconi, ma è una delle tante ipotesi peregrine. Sentiamo Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, sinceramente mi è venuto un po' da ridere a questo mausoleo, va bene. Beh, esiste però, questo è un dato di fatto. Un grande architetto l'ha progettato, ci saranno... Sì, va bene. È un po' come la grande piramide, da lì partirà... Amen. Proprio perché, appunto, secondo la mia visione, il corpo, la salma, insomma, il corpo del defunto è santo, è sacro, come dicevate voi, è inviolabile, quindi la profanazione... che avviene purtroppo è anche un reato punito dalla legge degli uomini, oltre a essere un sacrilegio. Ma lei qual è la sua ipotesi? I suoi genitori non è mia, in realtà ho chiamato per dare questo contributo perché le volte che accade di ascoltare la notizia, aggiornamenti vari su questa trafugazione, insomma sul fatto che è stato trafugato il corpo di Mike Buongiorno, i miei genitori sono stati molto colpiti perché lo hanno seguito fin da quando lui era giovane, con i vari telequiz, insomma mio papà è del 28, mia mamma del 31, per cui sono persone piuttosto anziane e affezionate. Mio papà è sconcertato da quanto era accaduto, eccetera, insomma fin dall'inizio ho detto ma no, è impossibile che hanno portato fuori dal cimitero il corpo di Mike, no, non è possibile. E lui sostiene, e a volte un po' è un paragnosta, un po' un mago, mio papà un po' uno stregone, ha delle premonizioni. È un sensitivo. Dice, secondo me l'hanno nascosto in un loculo, è lì, è nel cimitero. Lui dice che non è stato portato fuori, ma è una sua sensazione così di pelle. Sentiamo Giancarlo Liviano d'Arcangelo, che non sia stato nemmeno portato fuori dal cimitero, ma sia stato semplicemente sovrapposto in un altro loculo, in attesa magari di tempi migliori, poter chiedere il riscatto. Beh, sarebbe un atto molto coraggioso da parte dell'eventuale rapitore. Ieri, cercando di approfondire così, si parlava anche dell'idea che la tomba in realtà è un qualcosa di si può nascondere in maniera molto facile. Alcuni dicevano addirittura che basta metterla esposta all'aperto insieme a tutte le altre tombe per non destare alcun sospetto poi, no? Quindi, e poi devo dire che effettivamente quella terra è una terra che si presta moltissimo a nascondere, per la sua morfologia, esatto, per la sua planimetria, anfratti, per la sua proprio gli elementi toponomastici. Ci sono molti anfratti, molti casali abbandonati, molti torrenti che vanno sottoterra, quindi insomma, quindi che non sia molto lontano, sì, da quel posto in cui è stato trafugato. 800 24 00 24, tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. 800 24 00 24, sentiamo Giovanni. L'argomento di oggi è il trafugamento della salma di Mike Buongiorno, ipotesi, perplessità e soprattutto l'idea che sia qualcosa che faccia parte ancora della vita spettacolare di questo personaggio, a differenza di tutti i suoi predecessori che sopravvivono soltanto nella memoria di ciò che hanno fatto. Mike Buongiorno, a torto o ragione, per sua volontà altrui, per il caso o per una determinato piano di alcune persone, un piano criminoso, comunque ancora da spettacolo, fa parlare di lui, ci crea una trama, ci fa un ultimo grande domandone del telequiz: dove è finito il mio corpo? Giovanni. Buongiorno Nicoletti, io appena ho sentito parlare della scomparsa della salma di Mike Buongiorno, l'ho associata subito a un'altra grande scomparsa che è stata quella precedente di Enrico Cuccia. per motivi, diciamo, un po', se vogliamo, fantasiosi, ma si supponeva che Enrico Cuccia fosse stato seppellito con della documentazione un po' particolare e quindi alla scomparsa della sua salma si riteneva che potesse essere quello il motivo, insomma, della scomparsa del cadavere. E allo stesso modo io penso che in maniera fantasiosa Mike Buongiorno potrebbe essere... Sì, quella però l'hanno ritrovata in un fienile alla fine. Sì, esatto. E la ricostruzione filmica poi piuttosto divertente ne ha delineato i caratteri piuttosto rocamboleschi. Ora, se vogliamo, io potrei supporre che Mike abbia subito un'attenzione per quello, non tanto per qualche gioiello o danaro nella ma cosa poteva avere addosso di segreto misterioso Mike Buongiorno, scusami? Non so, la fiscalità di Mediaset, non lo so. La seppellisco, ma guardi, esistono luoghi ben più sicuri e molto più lontani, uno può nascondere le fiscalità. Comunque, grazie. Alfonso. Buongiorno Nicoletti. Mi sente? Sì, certo. Ecco, io credo che mi piace stare un pochettino più coi piedi per terra. Io ho la sensazione che stiamo costruendo delle ipotesi che tutto sommato lasciano un po' il tempo che trovano. Credo che sia per l'impegno profuso in questa operazione, per il grosso rischio corso da queste persone, alla fine i fini sono veramente venali. Credo che gli inquirenti stiano creando un muro intorno a questa cosa per evitare che notizie trapelino. Per aspettare un passo falso, ecco, diciamo. So che è passato tanto tempo, di solito queste cose... Ma queste cose, sa, più stagnano e più poi emotivamente da parte dei loro cari stimolano poi decisioni magari improvvise. Poi a loro cosa costa? Magari lo hanno messo sepolto da qualche parte. Qua non parliamo di un ostaggio che rischia la vita, parliamo di una salma che comunque nella migliore ipotesi è nascosta da qualche parte. Quindi aspettano che queste persone che volevano soldi, la cosa è stata più grande di loro, non sono riusciti a ottenerli, speravano in un immediato pagamento senza scalpore di stampa. Oggi non hanno più nessuna speranza, prima o poi di qualcuno di loro parli. Giancarlo Liviano D'Arcangelo, ricordo, autore delle Ceneri di Mike, edizione Fandango, che è stato alcune settimane nel luogo del misfatto. Ecco, tu ti sei fatta una tua idea. Analizziamo gli altri due o tre casi che hai toccato, le altre ipotesi, visto che l'ascoltatore ha detto fantasiose. Questa venale mi sembra quella più accreditata. Sì, sicuramente, io credo che... Fatta da balordi, esatto, però. Sì, io credo che si tratti esattamente di questo. Poi però, ascoltando, insomma, parlando con la gente lì sul posto, naturalmente ne giravano molte altre. Il torinese, notoriamente, storicamente, è una terra molto battuta dal satanismo. Per cui c'è, naturalmente, anche gli inquirenti all'inizio hanno puntato su questa tesi, c'era l'idea che potesse essere stata qualche gruppo satanico per un supporto di messe nere, esatto, le solite cose. Però poi questa tesi è stata subito smentita anche da uno degli esponenti dei bambini di Satana, cioè una delle sette più importanti. Lo stesso Dimitri, mi sembra, esatto, che ha detto, Marco Dimitri, che ha detto non c'entriamo che nulla. Loro non c'entravano assolutamente nulla. Anche perché hanno avuto già abbastanza noie, andarsi a rimetterne guai con la salma Mike Buongiorno sarebbe un po' folle da parte loro. Sì, anche perché naturalmente poi si può ipotizzare che l'attenzione vada proprio direttamente in maniera netto su di loro fin dall'inizio. Poi naturalmente c'è anche chi ha pensato che ci potesse essere dietro una vendetta personale, cosa poi smentita anche poi dai familiari, perché Mike era un personaggio assolutamente ben voluto da tutti, era stato anche un personaggio molto generoso, per cui anche questa tesi è stata immediatamente scartata. E infine, naturalmente, tra le varie ipotesi, quelle proprio anche più lontane, più fantasiose, come quella che tra l'altro abbiamo sentito anche adesso della fiscalità di Mediaset, c'era anche chi ha ipotizzato una trafugazione a scopo scientifico, una cosa che si faceva, diciamo, più che altro nei secoli precedenti, perché naturalmente grandi personaggi della storia, Napoleone è stato esaminato, esatto, il Duce quando fu ucciso il cervello fu subito portato in America per studiare. Ci sono sempre delle persone, ma parliamo di un periodo, per esempio c'è un famoso quadro di Rembrandt proprio rappresenta, capire se una persona che ha segnato in qualche maniera la storia ha dei segni distintivi dal punto di vista organico, e anche questa è da scartare. Rimane, diciamo, il nucleo più definibile e più plausibile: balordi, ragazzacci, teppistelli, piccoli malfattori che volevano o averne un utile o fare una bravata, e la cosa gli esplosa in mano, era più grande di loro. Mi è capitato addirittura che insomma, stando lì sul posto e vedendomi girare in maniera in solitudine, in maniera sospetta, qualcuno mi abbia guardato in maniera, insomma, un che po' sospettosa, pensando che fossi il postino che bussa sempre due volte sul luogo del delitto. Sentiamo Leonardo. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, no, praticamente mi rifaccio un po' a quello che è stato detto ultimamente. Anch'io concordo perfettamente sul fatto che è stata una richiesta di riscatto e che probabilmente chi ha cercato di chiedere questo riscatto, eccetera, si è trovato poi improvvisamente impossibilitato dal farlo per la mobilitazione delle forze dell'ordine, eccetera. Anche perché le stesse cose sono successe in passato, mutatis mutandis, con le opere d'arte. Quando venivano rubate alcuni quadri dalle chiese, eccetera, eccetera, e c'era poi la mobilitazione della polizia, eccetera, eccetera, l'opera non è stata più trovata, e perché probabilmente è stata distrutta, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che io non avrei da ben sperare sul un possibile ritrovamento. Diciamo, se sono disfatti del corpo del reato? Sono disfatti del corpo, mi dispiacerebbe molto, sì. Chiaramente, soprattutto lo dico col massimo rispetto nei confronti della famiglia, certo. Chiaramente, però è una mia idea. Escluderei l'ipotesi del fan, anche perché dubito che una persona da sola riesca a fare una cosa del genere, insomma. Sì, questo l'ha confermato Giancarlo Iviano d'Arcangio. Comunque è stata una cosa fatta da più persone, sì, sicuramente il peso di una bara piena è molto un gruppo di fan notevole. Mi sembra una cosa strana, insomma, ecco. Un minimo di organizzazione devono averla avuta, un minimo di conoscenza logistica devono averla avuta, e aggiungo, è molto probabile che conoscessero molto bene il territorio, Giancarlo. Esatto, perché il cimitero di Daniente sorge un pochino su un colle, non è facilissimo arrivarci con la macchina e poter trovare una via di fuga, per cui insomma si capiva molto bene che gli autori dell'oltraggio erano persone che conoscevano molto bene il territorio, sapevano muoversi, ci hanno messo pochissimo tempo, l'hanno portata via in macchina, e quindi sicuramente c'era un'enorme conoscenza del territorio. E anche sicurezza di sapersi muovere. Questo conferma quello che ho detto all'inizio: dare il riferimento del parco locale, si spera che in fondo la radice popolare della gente del posto, alla fine qualcuno vada dal parco, magari sotto il suggello della confessione, dica qualcosa di più. Evito di leggere gli sms con le tante ipotesi, perché ne fanno veramente di assurde alcune, non all'altezza del senso che abbiamo voluto dare a questa trasmissione. Grazie Giancarlo Liviano d'Arcangelo, autore, ricordo, Le ceneri di Mike, il libro che racconta ciò che in realtà non ha un esito, non c'è una storia, non c'è una risposta, come invece avevano sempre risposta le domandone dei quiz di Mike. A lunedì. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.